desde las Islas Canarias. Bienvenidos al podcast Dorama número 33, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2008. Como sabes, esto es una propuesta, una cita quincenal con la música Copyleft. Y comenzamos, sin perder más tiempo, con la música libre realizada una vez más desde Canarias. Disfrutemos juntos del funky que nos ofrecen Super Stereo. like you suppose, yeah. Here's my vocab of wine. Some people smiling around me while I turn in red. Maybe your mask go on. You can disguise with a phone. The what have I done, Billy? The blue, yes, the blue, great business. I'm gonna back home with my mom. Tonight I said my boss happy. I'm gonna take a fast lap on the road. I've been waiting for a long time, but I love her. And when I see her walking, so I'm going to the job and raise a person with a gem fight for the winter. Now please man, what is it that is called infinity? Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Y damos paso a la segunda propuesta de nuestro podcast de hoy, nada más y nada menos que el pop rock de los holandeses The Frown. Come on, baby, that's not up to you. question, 'cause I need to know if I can still say something original. Like a wheel, if I had Dímelo tú, se fue contigo. Pues estupendamente. ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un podcast. ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Cafelog! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Cafelog. Y antes de escuchar Cafelog era un pobre desgraciado. Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Cafelog. Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Cafelog. ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Cafelog? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelog.com. Y recuerda, Cafelog se escribe con K. Continuamos en este podcast número 33 de Doramas con el trabajo del dúo formado por Lena and Andreas, una delicada creación electropop llamada Please. Leader sends a prey. We are getting closer now.

Podcast Doramas en doramas.net. Y llegamos al último cuarto del podcast de hoy con el trabajo de Harem, que desde Italia nos ofrecen su personal propuesta de pop rock. Parli di sogni che... sigarette che continuano impotenti a lasciarsi bruciare in una stanza mai tersa di pensieri e di sogni che vorresti fossero realtà. Sulla pagina d'album c'è la foto incellita della scena più bella di quel lungo film, e sul tavolo giochi una carta importante su cui punti tutto quel che hai. Siamo liberi soli, siamo liberi solo quando possiamo deciderlo noi, ma questi fatti tra schemi ed abitudini vane non saremo liberi mai. Siamo fogli di carta che si bruciano al sole, che se s'alza un po' il vento bruciano di più, rassegnati a aspettare una folata di vento, una pioggia scrosciante che ci liberi. Avventure di eroi e noi piccoli coglioni a lasciarci sfiorare, allettante parole senza considerare la morale nascosta che fa crescere. C'è una libera scelta, non discutere, che c'è un'isola verde in fondo all'anima, e che se esce la carta un'altra pagina bianca presto troverà mano che la scriverà. Tra le voci del coro non offenderti, perché nemmeno loro lo sanno chi sei, piuttosto guardali in faccia e difenditi, orgoglioso e coerente nel tuo vivere. Ed una pagina bianca e un'altra pagina si colorerà presto e si racconterà, perché una storia non smette mai di accrescere, ogni storia di un uomo che si libera. Possiamo deciderlo noi, ma questi fatti tra schemi ed abitudini vane non saremo liberi mai. Siamo sporchi di sabbia, siamo pagine che raccontano avventure, gli eroi siamo noi. E il segreto del sogno sta nel vivere, per non lasciare morire quello che sarà. Sentirmi libero. cuore che piange amaro, capisco è giusto così, ma no, difficile accettarlo, il sentimento va. Al punto final de este podcast número 33. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast lo puedes encontrar en doramas.net/podcast y también que existe una cuenta de correo electrónico para cualquier asunto que estimes oportuno: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.